Svegliare lei è un fuoco che arde solo e arde per ore, con un sorriso di livello superiore che se lo guardi troppo può accecare. Poterla svegliare, lei è un fuoco che arde solo e arde per ore, con un sorriso di livello superiore che se lo guardi troppo può accecare. Non dirmi che sei speciale, già lo so, e no, non guardarmi così, che poi ripenso a tutta quella gente che sta di chi sta intorno e sporca il suo nome, il continuo battere del suo cuore, dei cannoni sai, fa più rumore. Non dirmi che sei speciale, già lo so, e no, non guardarmi così, che poi ripensa tutta quella gente che sta male, ma è tanto intelligente. Fuori non c'è più.